Il cacciatore di libri. Dedicato agli appassionati di misteri, si intitola Le figlie del libro perduto, l'ha scritto Catherine Howe e in Italia è stato pubblicato da Salani con la traduzione di Valentina Daniele. Negli Stati Uniti il romanzo è stato un successo soprattutto grazie alla segnalazione dei librai indipendenti. È una storia di mistero ma soprattutto di stregoneria. La stessa autrice è una discendente di Elizabeth Howe e di Elizabeth Proctor, due donne che furono processate per stregoneria a Salem, il paesino del Massachusetts, dove nel 1691 scoppia una vera e propria caccia alle streghe, dopo che alcune ragazze dichiararono di essere state vittime di un maleficio. Fu istituito un tribunale ad hoc e almeno 20 persone furono giustiziate. Ma ecco come l'autrice parla del suo romanzo al microfono di Marco Lignana. The Physic Book of Deliverance Dane tells the story of a graduate student of early American history at Harvard University. Le figlie del libro perduto racconta la storia di una giovane dottoranda in storia americana ad Harvard che scopre di avere profondi legami con i processi alle streghe di Salem avvenuti nel New England nel 1692. And this happens when she is staying in her grandmother's house in Marblehead, Massachusetts. La scoperta avviene un'estate quando si trova in vacanza a casa della nonna a Marblehead, nel Massachusetts, dove trova una vecchia Bibbia di famiglia con dentro una chiave antica. Nell'anello della chiave c'è un rotolo di carta con la scritta Deliverance Dane. E così Connie capisce che Deliverance Dane era il nome di una strega di cui non aveva mai sentito parlare prima. Da lì inizia la sua avventura. And she discovers that Deliverance Dane was a witch that we didn't know anything about before, and that begins her adventure. Quindi un libro in un certo senso autobiografico, perché appunto sappiamo della sua storia e dei suoi parenti. There are definitely some elements that are a little bit autobiographical, and I think that that is common amongst people who are writing their first novel. Ci sono certamente alcuni elementi un po' autobiografici, ma credo sia comune fra le persone che scrivono il primo libro. Comunque sì, ci sono somiglianze. Ad esempio, la protagonista è una dottoranda, e io ho scritto il libro da dottoranda. Ma soprattutto Connie ha dei legami di sangue con una delle streghe di Salem, e in effetti anch'io nel mio albero genealogico conto due streghe processate a Salem. Qui però finiscono le analogie, perché Connie ha una personalità e un carattere molto diversi dai miei. E poi non dimentichiamo che lei vive avventure straordinarie, mentre la mia vita di tutti i giorni è fatta di libri e passeggiate col cane, quindi direi molto standard. And she has a remarkable adventure, whereas my everyday life involves a lot of reading of books and walking the dog, and is pretty standard. Quindi due streghe coinvolti in processi per stregoneria nel suo passato. Come si è sentita a scrivere un romanzo di fantasy che però ha qualcosa di storico e riguarda proprio i suoi antenati? Well, I was interested in trying to look at witchcraft in history in a slightly different way. Mi interessava mostrare il tema della stregoneria nella storia in modo diverso, perché negli Stati Uniti ci sono tantissimi libri su questo argomento. Penso ad esempio al Crogiuolo, testo teatrale di Arthur Miller. Io mi sono concentrata su quel periodo storico in cui i coloni americani credevano che la stregoneria fosse un fenomeno autentico e una reale minaccia. Ho provato a mettermi nei loro panni, ad avere un punto di vista diverso dai racconti fantasy, che raffigurano le streghe con questi cappelli appuntiti, i nasi con i porri, eccetera, eccetera. Ho immaginato di avere a che fare con un'idea della stregoneria diversa da quella che poteva essere. And so I just wanted to have some room to imagine and to come up with a slightly different picture of what witchcraft might be. Lei è stata spinta, favorita, sponsorizzata dai librai indipendenti americani. Qual è il suo giudizio sul mercato editoriale degli Stati Uniti? Dominano grandi etichette? Si può ancora sfondare il mercato grazie a piccole librerie indipendenti? I think that independent bookstores in the United States serve a very important function. Credo che le librerie indipendenti negli Stati Uniti abbiano un ruolo fondamentale. È vero che oggi tanti comprano i libri online ed è un'opportunità importante perché ognuno può ordinare qualsiasi libro. Ma quel che rende le librerie indipendenti dei luoghi speciali è la possibilità di passare un sacco di tempo a curiosare fra i titoli. È il fatto che i negozi siano il centro di una comunità. Se non si sa quale titolo acquistare, il libro libraio indipendente sa sempre come aiutarti, ha competenza. Si tratta di un talento importantissimo perché di fronte a un'infinità di offerte è quasi impossibile scegliere. With an infinite number of choices, it's almost impossible to choose. E questa era Catherine Oh, autrice di Le figlie del libro perduto, pubblicato da Salani. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. Penny Lane e altre canzoni dei Beatles entrano prepotentemente nel romanzo Penshurst Road, opera prima di Marco Ricci, pubblicata da Mursia. Penshurst Road è una via di Londra. Qui vivono i protagonisti della storia, quattro persone che all'inizio non si conoscono, poi l'incontro avverrà quando alla fermata dell'autobus vedranno morire un uomo. Ecco come l'autore ci parla del romanzo, partendo proprio dal titolo. Questo titolo un po' perché ricorda, a me ricordava una delle strade famose dei Beatles, una delle strade delle canzoni, dei dischi, quindi pensato a Abbey Road, Penny Lane, e quindi insomma un gioco, solo che invece di una strada famosa, insomma, resa famosa dai Beatles, una strada completamente sconosciuta di un sobborgo di Londra, del sud di Londra, quindi da qui il titolo, ecco, è più che altro un riferimento in qualche maniera alla musica dei Beatles. E la musica dei Beatles è importante anche in questa storia, compare. Sì, diciamo, compare in maniera ricorrente, insomma, sia cantata dai personaggi che appunto con un continuo gioco tra Abbey Road, Penny Lane e Penshurst Road, insomma, in cui neanche i personaggi in realtà sanno dove sta Abbey Road e dove sta Penny Lane, ma sono così famose, così entrate anche nel nostro immaginario collettivo che anche noi se ci pensiamo le conosciamo ma non le abbiamo mai viste. Chi sono i quattro protagonisti del romanzo? I quattro protagonisti sono quattro personaggi, come dire, un po' sgangherati, insomma, come se incontrano tanti anche nella vita tutti i giorni. C'è una donna di mezza età, come dire, in crisi di identità, oppure una ragazzina un po' viziata che a 25 anni ancora non sa dove vuole parlare nella vita, oppure un uomo di 50 anni, insomma, in preda a una seconda giovinezza, e poi un trentenne un po' idealista e romantico. Che cosa li unisce? Che cosa gli accade? Ma li unisce sostanzialmente un po', come dire, la solitudine. Diciamo, Penshurst Road appunto è uno dei tanti posti di periferia, potrebbe essere anche ambientato nella nostra città. E questa solitudine a un certo punto si rompe per un evento improvviso. Praticamente sono testimoni di una morte improvvisa di uno sconosciuto sul marciapiede. E questo, insomma, questo fatto crea un intreccio nelle loro vite, un intreccio amore, insomma, che poi si dipanerà semplicemente alla fine del romanzo, al momento del funerale. Il romanzo è anche, insomma, è divertente, grottesco, ti sei inventato anche un po' un linguaggio diverso per far parlare questi personaggi. Sì, diciamo un linguaggio un po' per descrivere tutto, diciamo, ho voluto fare un libro colorato, sì, divertente, ironico. Soprattutto un po' colorato, come spesso è colorata la musica dei Beatles, sembra quasi fatta a fumetti a volte, così anche il linguaggio spesso è un linguaggio quasi inventato, insomma, che quasi fumettistico, ecco. E questo era Marco Ricci, autore di Penshurst Road, pubblicato da Mursia. Da un esordiente ad uno scrittore navigato, Henry De Luca ci racconta che cosa legge e come sceglie un libro. Preferisco leggere poesia perché quella è la forma più alta di letteratura del 1900, quella che io ho frequentato, e quindi preferisco leggere poesia. Non mi piace denunciare i nomi dei poeti o degli scrittori, perché ogni incontro con un libro è un appuntamento segreto che riguarda l'intimità di ciascuno, e non si possono prescrivere appuntamenti e incontri con gli altri. Ci vuole un po' di avviamento, insomma, se beviamo qualche bicchiere insieme, mangiamo qualche volta insieme, sì, posso poi anche capire che cosa può andare bene, no? Che cosa può condividere, cosa posso condividere con la persona, ma se no, insomma, non, preferisco non denunciare i nomi. Ma lei come lo sceglie un libro? Dall'incipit legge mai per esempio la quarta di copertina o preferisce non farlo? No, leggo la quarta di copertina, do un'occhiata in mezzo, un'occhiata all'inizio e anche alla fine, insomma, sì, faccio dei saggi, come con il melone, no? Uno entra, ci fa un buchetto e vede se il melone è buono, e se non è buono lo lascio. Anche per oggi è tutto, prima di chiudere vi ricordo che potete trovare queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri sul nostro sito www.radio24.it in formato MP3 o se desiderate anche in podcast. Una buona serata da Alessandra Tedesco.